Ma mandali tutti a quel paese, tutti i problemi e tutte le spese. Mandali tutti a farsi benedire. Vieni qui, vieni, vieni qui amore. Taglia in cortile quell'erbaccia che crepi. Vieni nel bosco, vieni tra i lupi. Il cielo e le nuvole come il nostro tappeto. La terra ed il mondo come unico nido. Levati tutto e vestiti d'acqua. Macchia il tuo viso col sorriso di bocca. Una foglia di fico sarà la nostra coperta. Un ombrello di aria, una torta di feta. Non dimenticati di non scordare. Prendi di tutto quello che sa di fiore. Fanne un bel giro e mettitelo in testa. Poi tutto il resto lo daremo di mancia. Spellati gli occhi di inutili travi. Prendi i tuoi sogni, i migliori che trovi. Portati i sandali che dove andremo è roccioso. Una volta sul posto non avrai più alcun peso. A chi ti dice denari tu rispondigli picche. A chi ti vuole una spada tu regalagli coppe. Del tuo succo d'arancia che l'amore è contatto. Con cui tu hai sbranato il mio cuore distratto. All'aeroporto in vacanza che si parte da ora. Tu sarai il mio cappello, la mia bella signora. Oltre il tempo dei tempi noi andremo sui monti. E mungeremo le vacche e mangeremo gli appunti. Ubriachi di nuvole e di cielo e di aria. Una sbronza di luna, una sbronza di storia. Nel domani è per sempre che ci basta anche poco. Perché chi ama si ciba di solo amore e di fuoco. Ubriachi di nuvole e di cielo e di aria. Una sbronza di luna, una sbronza di storia. Nel domani è per sempre. Io ti amo e dir poco. Perché chi ama si ciba di solo amore, di amore e di fuoco.